Andrea e Morena in Per fare un branco ci vuole un lupo. Storie di specie non classificate. Buongiorno e benvenuti al nostro consueto appuntamento che è Per fare un branco ci vuole un lupo. Ben arrivati a tutti. Buongiorno da me Andrea e da me Morena. Bene, oggi come sentite finalmente non siamo più marci di influenza, è una cosa un po' schifosa, siamo un po' meglio. I cuccioli iniziano a crescere, aprono gli occhi, iniziano a urlare, ringhiare e quant'altro. Si mordicchiano tra di loro anche se non hanno i denti, ma... Quindi pare che tutto vada nel migliore dei modi. Promettono bene. Sì, promettiamo bene anche noi, nel senso senza più questa costipazione terribile e terrificante, peraltro. Terribile. E terrificante. Va bene, oggi parliamo di un argomento particolare che è sempre legato ai ruoli del branco. Abbiamo già visto un pochino il branco, abbiamo visto gli alfa, abbiamo visto i beta e oggi parliamo di un ruolo che è totalmente diverso da quello del beta. Che ruolo? Omega, ma non vuoi dire nulla di quello che è successo nel weekend? Nel weekend è successa una cosa fantastica. No, in questo caso parliamo dei ruoli, poi... Neanche un accenno! No, voglio lasciarli così, chi ci ascolta lo voglio lasciare così. Sappiate che questo fine settimana sono successe delle cose straordinarie che non vi citeremo in questo momento. Ma è crudeltà! Sì, così sono obbligati ad ascoltarci ancora di più, no? Quelle cose, un po' di marketing, un po' di brand, un po' di... no? Oh mio Dio! Insomma, non puoi capire, lo so che tu da tuo ruolo Omega questa cosa ti dà particolarmente noia, però vabbè. Comunque, quindi parliamo, abbiamo detto... Io ve l'avrei detto. Comunque del ruolo Omega. Esatto. Il ruolo Omega è un ruolo che si, diciamo, contrappone, ma non nel senso di contrasto, come tipologia di energia totalmente rispetto al ruolo Beta, ad esempio, no? Sì, i contrasti sono evidenti. Esatto. È un ruolo molto, molto diverso dal ruolo Beta, è un ruolo più diplomatico, più tranquillo, più, come dire... faccio cosa, basta tirare una pallina e l'Omega si diverte, ad esempio. Con calma, cioè piano con le parole, nel senso, anche gli Omega nel loro piccolo si arrabbiano, per utilizzare una citazione. Senso, si arrabbiano tantissimo e fanno una gran paura. No, vabbè, nel senso, così, vabbè, a per dire. Vabbè, comunque, andiamo avanti, che sennò... Quindi, di questo ruolo... Si creano incidenti diplomatici, esatto, in famiglia. Di questo ruolo specifico, di cui, come avete sentito, Morena è una fervente, come si dice, promotrice e rappresentante, chi più di lei ne può parlare meglio di questo tipo di ruolo? Io ampiamente ho specificato il ruolo Beta e quanto... la mia figura sia proprio del ruolo Beta. Ora lasciamo più parola ovviamente a Morena, che è lei appunto la promotrice di questo ruolo specifico. Prego, spiegami. Ehi, seguitemi, diventerete tutti Omega. Esatto. No. Allora, il ruolo Omega è stato per molto tempo, come accennava già Andrea, bistrattato, povero, nel senso che proprio per questa nostra natura non bellicosa e non belligerante, tendenzialmente siamo stati ritenuti sempre i tonti della situazione, piuttosto che quelli che, ma sì, tanto va sempre bene, tanto sono sempre sorridenti, tanto sono sempre felici. Ci arrabbiamo e ci arrabbiamo e come? Semplicemente scegliamo di vedere la vita un pochettino più con giocosità, ecco. Anche nel branco di lupi esiste questo tipo di energia. Questo tipo di energia nel branco di lupi, chiaro, non si può identificare con la positività nei confronti della vita, ma sono coloro che innanzitutto stemperano qualsiasi tipo di interazione un pochettino più risosetta, a costo addirittura di farsi mordere, cioè si mettono proprio in mezzo tra due litiganti. In questo caso il terzo non gode perché si chiappa i morsi, ma vabbè. E hanno proprio il compito di portare equilibrio, quindi di avere sotto controllo il fatto che tutti stiano bene, il benessere di tutti, il gioco, il divertimento, lo svago, tutto quello che rende migliore la nostra vita. Ah, ecco, quindi è per quello. Va bene, sì, direi che già da queste... Sono dei goderecci, ecco. Sì, vabbè, diciamo che da queste brevi già descrizioni, come potete capire, è un ruolo molto differente da quello Beta, ovviamente. Non siamo Ercolini Pestamusi. No, va da sé, però, purtroppo, che per la nostra società, diciamo, per la nostra il nostro vivere di tutti i giorni, tendenzialmente si dice che per riuscire nella vita uno debba essere un combattente, bisogna sempre guerreggiare, scendere in guerra, combattere, sia soprattutto per i maschietti, si dice, e oggi anche per tante femminucce, tra virgolette, si pensa che per riuscire a conquistare ruoli importanti nella vita sia necessario essere dei guerrieri. In realtà proprio questo ha fatto sì che molte persone, anche con cui abbiamo interagito, si parla di centinaia di persone, scimmiottino spesso l'essere beta, cosa che assolutamente non è per tutti. Quindi qualora per questa persona, questo omega potenziale, sia stato programmato lungo l'arco della sua vita a dover essere per forza guerriero, combattente, eccetera, lui scimmiotterà, o lei scimmiotterà l'essere beta, quando in realtà nella sua anima non ha nulla a che fare con un atteggiamento guerriero di scendere in guerra, eccetera. Tant'è che se dovesse scendere in guerra se ne pentirebbe amaramente, e oltretutto farebbe delle cose che sono totalmente fuori contesto. Quindi in realtà potenzialmente è più pericoloso un omega che si crede un beta piuttosto che un beta che è convinto del suo ruolo. Ma soprattutto se dovesse scendere in guerra non starebbe bene, nel senso, proprio un omega che scende in guerra lo fa magari per un'impostazione culturale, per uno schema in cui è cresciuto, appunto come dicevi tu, ma non si sente assolutamente bene, cioè ci patisce proprio, gli dispiace il fatto di aver fatto lo sgambetto a quella persona che magari me l'ha fatta di tutti i colori, però fondamentalmente non ci sto bene, ecco. Esatto, è proprio questo il significato un pochino di questo ruolo. Vi posso assicurare, anzi vi possiamo assicurare, che questo, tra virgolette, è il ruolo più difficile da far accettare alle persone, proprio per l'impostazione che abbiamo nella nostra visione della vita, peraltro. Ma perché tendenzialmente si è impostati più al pessimismo? Se fossimo più impostati alla parte giocosa della vita, sarebbe più facile. Guarda, io non so se sia per il discorso di pessimismo o ottimismo, secondo me è proprio legato al fatto che per anni questo ruolo, insomma, soprattutto da studiosi del branco di lupi, no? I soliti cazzari che pensavano che il beta fosse, che il capobranco fosse quello, il maschio combattente, quindi sì, un cazzaro, uno che dice una cosa di questo tipo, ovviamente, per usare sempre un francesismo, come sapete io utilizzo spesso, e in questo caso ovviamente va da sé che il ruolo omega sia considerato quasi come l'ultima ruota del karma. Sì, l'omega, vabbè, l'omega, dai lì, stai buono, non fare niente, sta tranquillo, eccetera. In realtà, come dicevamo prima, il vero equilibrio del branco è proprio dato dall'omega. Un branco senza omega non è un branco, non esiste proprio, diciamo, ecco. Perché ovviamente ci sarebbero contrasti tutti i giorni, ci si picchierebbe tutti i giorni e sarebbe un grosso guaio per ovviamente l'equilibrio del branco stesso. E come sappiamo il lupo ama vivere in un ambiente equilibrato. No, non si picchiano tutti i giorni. No, non si picchiano tutti i giorni. Ma non sono animali che passano la loro vita a mordersi? Non lo so, però forse il lupo cattivo sì. Urca. Vabbè, come sapete noi siamo assolutamente contro tutto questo tipo di discorso, il lupo cattivo, il lupo solitario, il gatto cigolo che va a spasso sulle borse, vabbè, e quant'altro, perché ovviamente è stato ampiamente, soprattutto in seguito alla cultura cristiano-cattolica, visto molto male. In realtà, ovviamente, come sapete, o come se non lo sapete ve lo diciamo noi, la cultura cristiano-cattolica ha distrutto quelle che erano le icone di altre religioni, copiando tutta una serie di rituali come il Natale, che non è cristiano, come la nascita di Gesù Cristo, come il battesimo, come tante altre cose che non sono rituali ovviamente cristiani cattolici, ma sono rituali presi e rubati ad altre culture. Purtroppo arrivano da ben più lontano. Esatto, diciamo. Come il lupo, la civetta, il gufo, l'avvoltoio, tutte queste figure che per altre culture erano estremamente importanti. Il lupo stesso era quasi considerato una divinità verso moltissime altre culture, proprio perché ovviamente ha un sistema culturale molto particolare, molto circolare e quasi appunto da tavola rotonda, se vogliamo dirla così. Detto questo, ovviamente, quindi il ruolo omega, tornando al nostro ruolo, è il ruolo che dà maggiormente equilibrio all'interno di questo cerchio perfetto, se vogliamo dirlo in questo modo, insomma, no? nell'ambiente più umano, ruolo Omega? Nell'ambiente umano il ruolo Omega è un ruolo che... Più umano mi sembra una roba un po' da fantozzi, stavo meditando sì, su quello umano. Che... come umano come, lei. Come umano lei, come Omega. Ma allora, il ruolo Omega all'interno della società umana è il ruolo che maggiormente è dedicato alla cura, quindi al fatto di dall'inventiva all'ingegno, se vogliamo, l'ingegno inteso come fantasia, tra virgolette, al gioco, creatività. Alla creatività, al gioco, all'attenzione che tutti stiano bene, all'odio verso i contrasti, tra virgolette, per cui supponiamo nella vostra famiglia, nella vostra azienda, la figura che tenta magari di appianare un pochino le situazioni, che non ama scendere in contrasto. Diplomatica, quindi poco polemica, che ama magari lo scherzo, la risata, quindi stemperare in questo modo, che desidera che magari in una cena aziendale, piuttosto che la cena aziendale sa anche molto di fantasia, la cena aziendale, la coppa covra, vabbè, a parte queste cose qua, diciamo che quindi magari una cena aziendale piuttosto che una cena familiare, eccetera, è dedicato a fare in modo che magari quel determinato tipo di ristorante sia idoneo per tutti. Addirittura, cioè ad esempio, se ci sono, addirittura sono malissimo, se ci sono delle persone con intolleranze, se ci sono delle persone con allergie, se ci sono dei vegani, se ci sono dei vegetariani, il ruolo Omega è più dedito a appunto scegliere magari il ristorante dove sia possibile, dove sia presente un menù per ognuno, a differenza dei ruoli beta, ti ricorda qualcosa? Sì, ricordo che insomma in questi... l'altro ieri, tanto per dire, sì. E ho deciso io, lo scelgo io il ristorante. Lo faccio io. Ok, ho scelto un ristorante che a me sembrava idoneo, siccome nel nostro branco allargato abbiamo una persona vegana, che spesso prendiamo in giro, non so, diversamente alimentabile. No, scherzi a parte, ovviamente lui è una figura, ha preso questa importante decisione che noi chiaramente condividiamo soprattutto perché non è un vegano estremo, cioè non è un vegano estremista, tra l'altro un pochino rompiscatole. No, lui è convinto della sua idea, è una persona che ama il discorso, ama il confronto in maniera assolutamente idonea. E devo dire, condivido tante cose. Io personalmente non ho ancora preso questo tipo di decisione, ma condivido tante cose in questo momento perché è abile anche a spiegarle. Al di là di quello, ovviamente, in questo locale, quindi abbiamo deciso, e io tempo fa a questo locale sono stato e avevo visto, ok, che c'erano delle... Le carotine che indicava il fatto che magari quel piatto fosse... nella tua fantasia. Nella mia fantasia, vegetariano e vegano. Quando domenica ci siamo presentati a questo locale, come sapete voi, forse non lo sapete, ma ve lo diciamo noi, i vegani non mangiano né uova, né nulla che sia derivato da animali. Da animali o dal loro sfruttamento. Esatto, quindi formaggi, uova, zero di tutto questo, no? Ovviamente a parte oltre la carne, queste robe. Pesce. E siamo arrivati, in realtà, a queste maledettissime carotine, ok? Non era per vegetariano e vegano, era per latto vegetariano e ovo vegetariano. Quindi ci siamo trovati, lui, questo individuo del branco non era ancora giunto perché era leggermente in ritardo per il parcheggio che non riusciva a trovare, io chiaramente mi ho preso un attimino male per questo fatto qua, perché ovviamente non avevo considerato che in realtà era appunto latto vegetariano e ovo. Abbiamo ripiegato ordinandogli delle olive, sì, subito. Delle patatine fritte. Che era l'unica cosa che fosse esente da... No, beh, anche l'insalata le abbiamo chiesto di non mettere il caprino all'interno. No, in realtà le abbiamo chiesto, ma il caprino è stato messo lo stesso all'interno e te lo sei scofanato. E me lo sono scofanato. No, vabbè, era un pezzettino piccolo. Però vabbè, comunque, il punto qual è? Ovviamente non lasciate fare queste cose un beta, perché sì, può avere anche lui il guizzo, l'inventiva, la perché cosa... Perché nella società umana non tutti rispettano i loro ruoli, quindi anche i beta, quando cercano di occuparsi di questa parte qui, fanno dei casini. Per quanto ci mettano veramente tutte le loro buone intenzioni, tutto per Andrea, io sono convinta che fosse qualcosa di fantastico, che è stata un'ottima intuizione il posto, diciamo che quando questa persona è arrivata e ha guardato il menù dove non c'era una cosa che fosse vegana se non le olivette di contorno, ha avuto un attimo di magone, ma va bene. Sì, diciamo che io ho messo tutto il mio più, come si dice... Ha alzato il livello dell'empatia, ci ha provato in tutti i Però diciamo che siamo buffi in qualche modo, quando siamo al livello di empatia il beta è molto buffo, ovviamente, no? L'omega è buffo a prescindere. Il beta quando cerca di essere empatico è un po' come i cuccioli di Soyara quando cercano di camminare in questo momento, sì, zampettano di quelli là, cercano di stare in piedi. Comunque, quindi, in un'azienda invece chi è l'omega? L'omega è colui che cerca di stemperare, quindi in una riunione gli alfa piuttosto che l'alfa e il beta, piuttosto che l'altro e il delta, che si mette di mezzo e vuole per forza fare polemica perché una cosa deve essere fatta in un altro modo, perché deve essere più corretta. L'omega è colui che si infila in mezzo e cerca di stemperare, quindi fare in modo che si arrivi a una soluzione comune senza utilizzare la diplomazia. Vi facciamo un esempio a tal fine. Anche ad esempio l'omega potrebbe essere quello che introduce una pausa caffè a metà mattinata, perché comunque lo spirito resta più alto, perché una persona magari staccando e poi riprendendo riesce comunque a utilizzare al meglio le proprie energie. Ad esempio. Cura e benessere. Per farvi l'esempio, supponiamo che nella vostra azienda o nell'azienda in cui lavorate ci sia un ufficio legale in cui si occupa ovviamente di tutto ciò che riguarda la legalità, quindi eventuali cause, eventuali attacchi, eventuali difese, eccetera. Supponiamo che, appunto, pari avvocato, il primo avvocato sia un avvocato beta, quindi ama lo scontro, ama scendere in guerra, ama combattere, ama quindi una parte più aggressiva. Supponiamo che la direttiva degli alfa, quindi degli imprenditori, dei responsabili di questa azienda, sia che ogni qualunque azione legale sia un'azione ovviamente di difesa, qualora sia necessario, e mai di politica aggressiva nei confronti di chi magari ci può attaccare, eccetera. Chiaramente in quel caso quel determinato tipo di figura ovviamente si sentirà castrata, non starà bene, perché lui desidera scendere in guerra e combattere contro tutto e tutti, ok, al minimo accenno io cerco di combattere immediatamente, e quindi sarà un bel guaio, perché ovviamente avremo una figura che non solo non è nel suo contesto, non solo rischierà di farci guai, di combinare casini, ma non starà proprio bene. Supponiamo invece che all'interno di questa figura, quindi di tranquillità eccetera, mettiamo un avvocato, sì, ma un avvocato omega. Ah beh, a quel punto è perfetto, perché ovviamente farà del suo quello che desidera, starà bene, sarà in ruolo e assolutamente sarà ben attenta a non fare casino. Claro che sì. Differenza invece in uno studio, appunto, in cui l'avvocato debba per forza, o comunque le direttive degli altri siano di totale aggressività, quindi il fatto di al primo attacco, anzi attacchiamo noi e cerchiamo di distruggere quello che c'è, noi abbiamo un ruolo omega, il ruolo omega farà anche lui un casino della Madonna, non saprà bene come attaccare, quindi saranno dei morsi, se vogliamo parlarlo saranno morsi disconnessi, e ovviamente starà proprio male. A differenza invece, se abbiamo un ruolo avvocato, in questo caso beta, è perfetto, perché sarà un avvocato d'assalto che cercherà di combattere tutto e tutti, insomma, no? E nella famiglia? Nella famiglia allo stesso tempo, nella famiglia colui che pensa magari alla cura, che pensa a come far divertire la famiglia, che dice c'è una gita da fare, ma tendenzialmente non lasciamola, soprattutto le parti divertenti, organizzare particolarmente al beta. Il beta può organizzare l'uscita di per sé, nel senso, una volta che l'omega gli dice guarda, andiamo lì, andiamo al parco divertimenti, per fare un esempio molto omega, andiamo al parco divertimenti, il beta è quello che magari organizza gli orari di partenza, controlla che la macchina, si parte e tutto quanto, mentre invece l'omega, diciamo che più la macchina la controllerebbe il beta. Sì, il delta, l'olio, cose, queste cose qua, sì, intendo dire... Il gonfiaggio delle gomme, sì, anche il traffico controllerebbe più il delta, sì. No, intendo dire proprio il fatto di delegare tutta una parte al beta in famiglia. Noi siamo chiaramente, nella nostra famiglia, siamo la coppia alfa, è composta da un beta e un omega, quindi tendenzialmente tutta questa parte qua la delego ad Andrea, e mentre il mio ruolo mi impone di più e mi fa sentire più a mio agio nell'occuparmi di tutta la parte più... Cosa facciamo durante il viaggio? Infatti Andrea mi odia perché io inizio a canticchiare durante il viaggio, gli faccio tutte le canzoni che lui odia. Ecco, un consiglio per gli Omega, non coinvolgete per cortesia i beta in canticchi, fraseggi di questo, lasciatelo guidare se proprio sta guidando, o lasciatelo assorto nel suo essere beta, per cortesia, ecco. Ma se noi vi lasciassimo assorti nell'essere beta, ringhiereste a tutti quelli che vi sorpassano. Appunto, ma lascia che ringhia quello che... Mettendo in circolo un'energia di tensione, mentre invece se siamo tutti più rilassati, stiamo cantando qualcosa insieme, se stiamo facendo il gioco delle parole che Andrea ama. Ma io non sono rilassato quando canticchi nelle orecchie. È una dura vista. Esatto. Vabbè, diciamo che ecco, questa è un po' l'impostazione, se vogliamo. Vabbè, detto questo, quindi insomma, all'interno della famiglia abbiamo visto questo ruolo, no? Se vogliamo, all'interno magari di un... di una squadra, di un team sportivo, magari colui che veramente sull'autobus inneggia cori e quant'altro per stemperare, far abbassare la tensione magari all'interno dello spogliatoio. O caricare, insomma, ovviamente. Quindi può essere un ottimo stemperatore, ovviamente, dell'Omega, anche un ottimo motivatore, che ovviamente può motivare tantissimo attraverso l'empatia, attraverso quello che sente in quel momento. Cioè, l'Omega tendenzialmente è quello che tu non sai ancora di star male, ti viene vicino e ti dice: allora, tutto bene? Cos'è? È quello che porta rogna? No, pensavo che... E che vede oltre, percepisce, sente, tutte cose che... Sì, un po' quello che non sa ancora bene, l'altro gli viene a dire, tutto a posto, sono un po' di tipo... No? Porta un po' di... Allora, esistono anche le battute beta, cioè oltretutto i beta che cercano di essere simpatici sono alquanto... Però mi sembrava, cioè, come dire, sto bene, sicuro di star bene? Sì, sto bene. No. Poi ovvio che a un certo punto continui a mettere il dito nella piaga. No, mi sento male. mi sento male. Vabbè, quindi ecco, questo è un po' il ruolo Omega. Parlando quindi di pregi e difetti, ma il pregio dell'Omega ovviamente è che dà equilibrio e che se nel suo ruolo è un è il ruolo che dà equilibrio veramente, è un ottimo alleato soprattutto per la gestione di tutti gli altri ruoli, è un po' il collante, se vogliamo dirla, un po' il vinavil della situazione. Oddio, no? Sto per offendermi perché mi hai paragonato un tubetto. Però vabbè, però comunque un po' il collante della situazione, quindi è colui che è un po' la liaison per tutti. Il difetto dell'Omega, il difetto dell'Omega è che se pensa di essere un altro ruolo, soprattutto il beta, fa dei gamettosini. Quindi se vogliamo, il maggior difetto dell'Omega è che non essere equilibrato nel suo ruolo, ovviamente fa un gran casino. Non solo, ma un difetto che può venire fuori sull'Omega è qualora non abbia protezione. Quindi se l'Omega non è protetto da un beta, non è protetto da un branco, e per un l'Omega è un grosso guaio, si sentirà scoperto, si sentirà stressato, si sentirà non compreso e tutto ciò che può derivare ovviamente da una non protezione. Quindi supponiamo che uno si senta indifeso per quello che riguarda alcuni aspetti, indifeso non è indifeso l'Omega, ma per alcuni aspetti questo è indifeso, come è indifeso ad esempio il beta sull'empatia eccetera, è totalmente indifeso, quindi se è l'Omega che subentra in questo caso, ma per tutto il resto, se l'Omega si sente indifeso e non ha una figura che lo protegge, che gli sta presso, che gli dà una mano, che lo aiuta nell'esecuzione delle sue funzioni, è un grosso guaio e si sentirà stressato e morderà in maniera sconclusionata e in maniera confusa. Quindi e soprattutto morderà per far male, perché morde convinto che sia a repentaglio proprio la sua vita. Quindi esatto. Morderà con tutta la forza che ha nei punti più impensati, senza una strategia probabilmente. Anche se non è in realtà in quel momento a rischio della sua vita. No, certo, perché comunque per l'Omega viene considerato proprio un attacco. Esatto. Non sa, tendenzialmente sa molto meno gestire la propria aggressività anche. Esatto. Detto questo, direi che abbiamo ampiamente parlato dell'Omega. Appena un accenno. Come sempre, sapete, ricordatevi che se volete entrare in contatto con noi e se desiderate fare della vostra vita qualcosa di particolare, qualcosa di molto unico, se vogliamo, molto unico, non va bene in italiano, però mi piace, la mia idea. Qualcosa, se volete rendere la vostra vita straordinaria. Eccola, per dirla in maniera così. Ovviamente potete contattarci, la nostra pagina è www.andmoretrainer.com, quindi scritto andmoretrainer.com. Lì ci sono tutte le informazioni e quello che stiamo facendo. Noi adesso andremo avanti nelle prossime puntate con gli altri ruoli, che appunto è il Delta e il Gamma. Dopodiché vi parleremo di questa attività che abbiamo svolto questo fine settimana, che è molto particolare, che si chiama The Pack System. Va bene. Mica cotiche. Va bene, detto questo, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo appuntamento in cui parleremo degli ultimi due ruoli, che sono appunto il Delta. Ultimi ma non ultimi. Detto questo, vi auguriamo una splendida settimana, una splendida giornata. Al prossimo appuntamento. Alla prossima! E con questo la nostra puntata finisce qui. Alla prossima, da Morena e Andrea. Ciao!